Viviamo un momento in cui le analisi, gli scenari sono piuttosto chiari e allo stesso tempo fluidi e non così fermi. Un anno difficile, dopo la prima, come dire, botta pandemica, è chiaro che la nostra speranza, il nostro orizzonte in testa, ma lo dico da turista, da viaggiatore, da persona, è quello di avere un'estate dove ci si possa muovere. O ci si possa muovere, come dire, dentro protocolli di sicurezza, però anche con un po' di quella libertà che, no, abbiamo sempre auspicato. Ci sarà evidentemente, c'è un mercato internazionale difficile, gli spostamenti internazionali ancora non sono nel loro recovery plan, ci dicono appunto di come gli spostamenti internazionali siano difficili, basta guardare la programmazione dei vettori, dei sistemi aeroportuali. Noi ci concentriamo su un mercato domestico che è quello europeo e su un mercato di prossimità che è quello italiano. Europeo in particolare nel cuore, lo diceva l'assessore Corsini, quello di DAC, quindi di lingua tedesca, centrando un focus sulla Germania. Abbiamo lavorato intensamente con l'APT, con Visit Romagna, con gli operatori privati e con professionisti importanti tedeschi per arrivare a tentare di capire come dal punto di vista estetico, comunicativo, del linguaggio potessimo far arrivare il messaggio sulla nostra terra. Faremo un'operazione importante con un cross media perché la nostra operazione di spot utilizza una piattaforma complessa. Faremo un'operazione con Wetter.com, che è il più famoso sito di previsioni meteo in Germania, con un incrocio con promozioni e spot su ProSieben e Sat.1, che sono TV tedesche molto importanti. Abbiamo calibrato anche, come dire, incrociando le dita, ma anche con lucidità, il nostro posizionamento, il nostro arrivo di spot di massa in Germania in un periodo in cui augurabilmente la campagna in Italia, e quindi arriviamo in un momento dove il messaggio che diamo della nostra Romagna atterra anche su una dimensione in cui ci si sente più propensi ad andare in vacanza. Se dovessimo dire oggi, no, venite, andate, viaggiate, saremmo tutti tra qualche mese, quindi la nostra campagna va da aprile fino a metà maggio e poi dal 28 giugno all'11 luglio, che è il momento, non dico last, però importante per prendere e scegliere con un messaggio. Cosa diciamo? Diciamo quello che siamo e anche dei nostri cambiamenti. Diciamo che siamo, la dolce vita lifestyle. Non c'è un pezzo in Italia, non c'è un luogo in Italia dove, come dire, le diverse componenti, dall'ospitalità, la capacità di parlare tedesco, una lingua, il sorriso, mette insieme il mare e dei parchi naturali straordinari, la bicicletta e le tendenze, il focus su una famiglia contemporanea e moderna è un focus voluto, family, ma anche, come dire, una famiglia moderna che prende la bicicletta, che può vivere un'atmosfera di spiaggia, non è traditional. In questo senso il gruppo di professionisti tedeschi guidati da Norbert Kneisel ci ha aiutato molto, nel senso è stato un loro punto di vista, sono professionisti che hanno lavorato su spot internazionali anche molto importanti, di grandi gruppi appunto come Siemens, poi lo dirà Coca-Cola, lo dirà Burioni, anche con produzioni cinematografiche. Quindi andiamo con un messaggio diretto, molto preciso, dolce vita, lifestyle, moderno, contemporaneo, che porta con sé la sicurezza, il sorriso, il mare e lo straordinario respiro delle nostre colline. Quindi è un messaggio forte che vogliamo dare alla Germania. Sappiamo che ci si muoverà nei mercati di prossimità e domestici anche con l'auto, non perché il mondo post-Covid non richiederà più tempo e più spazio, perché siamo già pronti con dei van, con l'autovelocità, il mondo si riassesterà, per un motivo di sicurezza ci si sposterà nelle auto. E pensate che affineremo a questo messaggio anche il fatto che alcune località della Riviera Romagnola si stanno attrezzando per anche un welcome check-in, con dei parcheggi di attestamento dove col sorriso ti si accoglie, lasci la macchina e il tuo bagaglio arriva in stanza, non devi pensare a nient'altro. Poi la macchina la puoi prendere se ti vuoi spostare dalla Camargue Italienne, il delta del Po straordinario o le nostre colline. Noi consolidiamo un'immagine di una Riviera Romagnola seria, sicura, Covid free, dove se vieni sei più sicuro che a casa, e questo è il messaggio che diciamo, perché le nostre imprese hanno tutte le certificazioni dei protocolli Covid free e finisco, non rinunciamo a dire che siamo l'Italia dove tutto si può immaginare, dove tutto si immagina. L'Italia è il Rinascimento, è la culla del Mediterraneo, la Romagna ha dentro tutte queste cose, lo facciamo con Dante, la Divina Commedia, lo facciamo con Federico Fellini, si aprirà il Fellini Museum, questo polo culturale tra Castello, Circa Marcord, Fulgor, Teatro, proprio ad agosto. Gli altri operatori sono molto aggressivi, penso alla Grecia con le isole Covid free, penso ai vettori aerei Inghilterra e Grecia. Noi andiamo nel cuore dell'Europa dai nostri amici tedeschi a fare un'operazione calibrata, seria, dove mettiamo al centro la nostra riga blu che è il mare, con tutto, come dire, il sistema di servizi che mette in sicurezza la vacanza.